Cosa diremo ai figli che non avremo mai di quelle notti insonni, nere pece come mani di benzina, in cui ci sentivamo i Rolling Stones schiacciati in un ducato con le chitarre in mano, in autogrill a ripassare Benestet e spendere in camogli 100 euro di cachet. Si respirava un'aria strana dentro i motel come un eterno arrivo, le macchie di sogni sui letti van via con lo Chantecler, nessuna luce a San Siro, e noi figli di un dio che è agnostico ma crede nell'oroscopo, e quando mori non ti dice dove vai, ti chiede solamente come è andato live. Non metto più magliette di gruppi rock, ho fatto strada stima con la Woodstock, a 27 puoi morire oppure diventare un po' più pop, e tutte le portiera c'era scritto dentista Croazia, era una figuraccia ma costava poco, in settimana portava gli anziani a Zagabria per dei denti perfetti ed un sorriso low cost, ci ridevano dietro le spalle ed è così che sono diventate larghe, aspettando qualche cosa che non arrivava mai, tipo Simon Confry. Non metto più magliette di ho fatto strada stima con l'autostop, a 27 vuoi morire oppure diventare un po' più pop, e tutte le band si rompono, si scelgono e poi si sciolgono, ma noi siamo fermi a quella notte di un agosto magico, Roma-Milano in quattro ore, ci vuole tanto tanto. Che si chiama destinazione, ma non ci arrivi mai se provi a andare di corsa. Non so a che stadio siamo dell'evoluzione, però forse in questa stessa frase trovo la risposta. E do la dentista Croazia, che fine avrei fatto? Lucia San Siro, adesso te la...